Ti abbiamo in diretta dunque finalmente, buongiorno da Lampedusa, ciao. Ciao. Ecco, ci senti bene. Allora, 48 ore dopo la visita allo show del Premier, oggi leggiamo dalle varie agenzie di questa mattina, dai duri attacchi di Amnesty International nei confronti del governo italiano, anche il fatto che il piano di evacuazione verso non si sa dove è momentaneamente sospeso, viste le condizioni del mare e del vento soprattutto, giusto? Sì, anche noi siamo appena usciti da questa conferenza stampa che ha detto cose molto intelligenti intorno al fatto che l'emergenza è stata prodotta dalla politica del governo italiano. Sono cose che già avevamo verificato in questi giorni chiedendo un po' di informazioni in giro. Tanta gente era arrivata in altri posti, in Sicilia, in altre isole ed è stata trasferita qua. Non è stata fornita nessun tipo di assistenza, anche minima. Quindi sono tutti segnali, insomma, che ci dicono che non è stato un caso che Lampedusa si trovi ora in questa situazione, ma è stata una parte di un progetto politico ben preciso che riguarda complessivamente le politiche dell'immigrazione, che ha trovato il suo centro nell'isola di Lampedusa, è diventato il palcoscenico su cui rappresentare un problema che in realtà, come dicevano anche oggi durante la conferenza stampa, non esiste, in quanto gestire 10.000 persone per un governo europeo, per il governo italiano, non sarebbe dovuto essere un problema. Sì, visto che poi facevamo il confronto per esempio con la Tunisia, che ne sta gestendo qualche migliaio in arrivo dalla Libia, dunque non mi sembra che stiano facendo queste pantomime che si stanno facendo in Italia. Sì, anche questo è un dato che è emerso sin dal nostro arrivo a Lampedusa. Noi siamo qui da circa una settimana e già dai primi giorni le persone si lamentavano del fatto che mentre la Tunisia accoglie decine di migliaia, adesso si parla intorno ai 150.000 profughi dalla Libia, fornendo un'accoglienza degna, diciamo, fornendo del cibo, dei vestiti, un posto dove dormire, dei posti dove potersi fare la doccia, persino delle sigarette, l'Italia invece è stata in grado solo di creare un grande carcere a cielo aperto in cui non esiste nessuna forma di aiuto a queste persone, che tra l'altro non chiedono nessun aiuto, chiedono solamente di poter partire, di poter proseguire il proprio viaggio verso l'Italia, ma molto spesso verso altre destinazioni europee, insomma chiedono solo di essere libere. Tra l'altro, appunto, abbiamo anche letto un'altra agenzia abbastanza inquietante che arriva da Milano, che parlava di rastrellamenti della Polfer all'interno poi della stazione centrale di Milano, pronta ad accogliere i treni che arrivano dal sud, i treni della notte, andarsi e portarsi via tutti i tunisini che ne sono scesi. Si parla soltanto di questa mattina, poche ore fa, di ben 40 fermi. Senti, visto che oggi poi leggendo le cronache si parla di rivolta, alcuni giornali, soprattutto spesso il Manifesto, hanno parlato di rivolta dei tunisini a Lampedusa, quando più che di rivolta si è trattato invece di una giusta protesta, sciopero della fame e una sorta di manifestazione per le condizioni invivibili in cui sono stati buttati. Se puoi raccontarci com'è stato un po' il pomeriggio di ieri, questa fantomatica rivolta che poi non serve strumento, ennesimo strumento per fomentare ulteriormente la gente. Beh sì, più che di una rivolta si è trattato di una manifestazione messa in atto soprattutto da un gruppo particolare di tunisini, non da tutti i tunisini dell'isola. C'è un gruppo di persone a cui era stato detto circa due giorni fa: questa sera partirete, quella sera era stato detto la mattina dopo partirete, la mattina è stato detto di nuovo la sera, la mattina. A un certo punto, giustamente, queste persone che vivono praticamente in attesa di una nave che le porti da un'altra parte, l'importante è che sia lontano da qui, e hanno deciso di scendere in piazza e di protestare. L'hanno fatto anche in maniera molto, diciamo, allegra, cantando in maniera pacifica, però nonostante questo si leggeva nei loro volti, insomma nelle loro parole, la rabbia. Questo è un dato che non è sfuggito certo al questore di Agrigento, che si trovava in quel momento nella manifestazione, e alle forze dell'ordine. Infatti subito dopo la manifestazione sono cambiati molto i termini con cui le cosiddette forze dell'ordine sono rapportate ai migranti, e immediatamente è partito l'ordine di svuotare il centro di accoglienza per portarli sulla banchina del porto, da cui poi sarebbero dovuti essere imbarcati di estera. Questo gesto, tra l'altro, è stato un gesto primo assolutamente di senso, se non dare appunto un segnale a queste persone per evitare che perdessero ulteriormente le staffe, insomma, perché la polizia sapeva bene che era impossibile imbarcare ieri sera chiunque, perché il mare era molto agitato. Oggi il mare sta migliorando, il vento si è abbassato, quindi sono state portate sulla banchina, sono state tenute alcune ore là al vento e al freddo, e poi sono state riportate al centro di accoglienza. Questo è quello che è successo ieri dopo la manifestazione, diciamo. Nuovamente appunto viene gestito tutto quanto sempre in via emergenziale, sempre rincorrendo all'ultimo minuto. Beh, se è tutto possiamo anche salutarci qui, poi ci andremo a sentire prossimamente, non so se hai altro da aggiungere. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Sulle linee periferiche dei tuoi tram troppo mattinieri e sulle loro vene che si vedono bene. E ridere di rotte, distributori di sigarette, fosforescenti.